get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. E buonasera, buonasera e ben ritrovate. Quella che state per ascoltare è la 239esima trasmissione del coordinamento lesbiche romane, consueto appuntamento nell'etere attraverso i liberi microfoni di Radio Onda Rossa all'interno del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87-900 MHz. E a proposito di liberi microfoni, vi ricordiamo che questa radio non trasmette pubblicità e vive grazie ai contributi volontari delle ascoltatrici e degli ascoltatori. Perciò fate come noi, aderite alla campagna di sottoscrizione straordinaria per Radio Onda Rossa. Si può sottoscrivere venendo negli studi di Via dei Volsci 56 a Roma tutti i giorni dalle 8 alle 21, oppure compilando il bollettino di conto corrente postale numero 61804001, intestato a Radio Onda Rossa, Via dei Volsci 56, 00185 Roma, e mettere specificando nella causale sottoscrizione. Oppure andando sul sito www.ondarossa.info si può cliccare sull'icona Sostieni. Bene, torniamo a noi. Oggi qui in radio siamo Caterina, che vi sta parlando, e due giovanissime donne, Alessia e Nicolette, che oggi ci daranno una mano in questa trasmissione, nella quale abbiamo pensato di proporvi un racconto breve scritto proprio da Alessia, e che sicuramente le ascoltatrici più assidue ricorderanno, perché con lei abbiamo già fatto una trasmissione prima dell'estate, se non sbaglio. Il racconto di oggi si intitola Pubblicità Progresso, credo, se non ha cambiato titolo nel frattempo. puoi parlare, aperto il microfono. Allora, buonasera a tutte. In realtà non è tanto un racconto, è un articolo che non c'è problema, aveva il titolo originario di Pubblicità Progresso, ma che sarà pubblicato con il titolo Io sono sana, anzi è stato già pubblicato sul sito di una nuova rivista che vi invito assolutamente a leggere e a consultare online. Il sito della rivista è www.xxdonne.net. Ok, e noi invece continueremo la nostra trasmissione parlandovi dell'ultima trovata capitalistica adottata da diverse imprese che cercano, con questa discutibile strategia, di imporre nuovi rapporti di lavoro. E poi, come al solito, metteremo della buona musica che vedrà come interpreti, proprio per una nostra scelta voluta, solo ed esclusivamente donne. Quindi cominciamo subito ascoltando la voce di Mariella Nava con un brano un po' datato, però a me piace tanto, per cui io, siccome sto ai comandi, praticamente lo mando. E il brano si intitola Il nodo, la gabbia e il seme. Un attimo che lo cerco, come al solito. Sta arrivando, eh? Tempo no, se tira un altro vento che fa sentire, che fa capire, cambia gioco. We'll be right back. Per ognuno un seme, calma non una sirena. E allora, prima di dare la parola ad Alessia, io come al solito mi scordo sempre qualche cosa, vi ricordo il numero del cellulare che rimane acceso fino alla fine della nostra trasmissione, sul quale voi potete mandare le vostre considerazioni, i vostri pensieri o anche soltanto un salutino. Il numero è il 339-853-6270. Passo quindi adesso la parola ad Alessia. Grazie. Allora, vi ricordo, potete leggere quest'articolo e l'intera rivista su xxdonne.net. Una volta eravamo diverse, migliori. Per superare le nostre più intime problematiche femminili, bastava infilarci tra le gambe un assorbente e poi c'era permesso tutto. Andare in moto, saltare con il paracadute da un aereo, fare ginnastica intorno a un palanchino da restauratore, anche ostinarci a metterci quei cazzo di pantaloni bianchi aderenti o minigonne bianche. La televisione ci forniva, attraverso pubblicità al limite, in ogni senso, esempi in fondo positivi. Hai le mestruazioni, ma puoi condurre una, virgolette, vita normale, per inciso, come si dice ai portatori di handicap, ah no, hai diversamente abili, tanto per lavarsene le mani. Un giorno scoprimmo però, dalla pubblicità, che alcune di noi puntavano appositamente la sveglia la notte per cambiarsi l'assorbente. Personalmente ne rimasi turbata. Non avrei mai sospettato tale pratica demenziale. Per fortuna, per arginare sanguinolente alluvioni notturne, cascate ematiche senza freni e dissanguamenti ultralunari, ci veniva fornito l'apposito assorbente XXL. Qui devo aprire una parentesi. Produttori di assorbenti, pensate che le nostre vulve misurino ettari? Recuperate la vostra antica vocazione, smettete di produrre materassini e tornate a dimensioni normali. Non siamo noi la categoria antropologica fissata con le misure. Chiusa parentesi. Intorno alla metà degli anni Ottanta, poi, scoprimmo che non solo la donna ha le mestruazioni, il che già di per sé sembra proprio imperdonabile, tant'è che non si riesce neanche a pronunciarne il nome, ma che, in generale, ha nel corpo una fessura aperta che potenzialmente potrebbe rilasciare indefinibili perdite, maleodoranti. Per nostra fortuna la pubblicità aveva cominciato a proporci il salva slip. Anche le mutande devono essere protette dalla malefica influenza delle donne. Ottenemmo quindi un vero e proprio lasciapassare per entrare nella vita di tutti i giorni, noi portatrici di sessi scolanti. Mi ricordo in particolare che in quell'arcaica meraviglia che era la TV delle ragazze, molte epoche fa, Cinzia Leone, mi pare, o forse era Maria Amelia Monti o Angela Finocchiaro, non? Faceva strage della propria famiglia, poi scendeva in strada, sparava sulla folla e sventolava davanti ai poliziotti accorsi a fermarla il suo regolamentare salva slip. I due agenti, sollevati, la lasciavano andare. Ai nostri giorni il salva slip si è aggiornato. Lasciate le sue vesti di anonimo rettangolo, è diventato espanso, sagomato, modellato, formato tanga, passepartout, decorato e persino trapunto. In televisione ci lasciano capire che sedendoci potremo ritrovare tutta la fresca sensazione del poggiare la vulva. A. Su una nuvola. B. Su un gigantesco petolo. C. In una poltrona. Cavolo, certe sono proprio sensibili. In ogni caso, estratti di aloe, di mille fiori, di menta, di corna d'alce e altre puttanate continueranno per nostra fortuna a frenare i disgustosi effluvi che da ogni femmina umana naturalmente promanano. Alla fine degli anni Ottanta, lavande e saponi intimi uscirono dalla farmacia e infilarono la porta del supermercato. Ai nostri giorni c'è in televisione una tipa con l'aria incredibilmente angelica che ti sorride con sguardo tra il deliziosamente innocente e il vagamente lascivo, e tu puoi leggerle che cosa ha nelle braghe. Fantastico! Ma qui siamo ancora nella gestione della norma, ok? Andiamo avanti. Nanna, giochi con me? Elena, lo so che sei la vedova del mio miglior amico, ma sei una roba pazzesca. Insomma, vuoi ballare? Signora Carla, benvenuta. La lezione di aerobica comincia tra poco. Vuole forse cominciare a fare riscaldamento con la ciclette? A queste domande, nonna, Elena e Carla rispondono pronte. Sì, perché ho messo l'assorbente che limita le mie inconfessabili perdite urinarie. Altra scena. Si apre la porta dell'ascensore. Due donne, eleganti, curate, non troppo giovani né troppo âgées, si congratulano reciprocamente per avere il coraggio di usare l'ascensore. Infatti, il mercato ha finalmente prodotto per loro l'assorbente che non solo limita le inconfessabili perdite urinarie che tutte le donne hanno, ma pone finalmente una seria barriera a quella puzza stantia di piscio che normalmente le allona come il nimbo allona i santi del paradiso. Sono volgare? No, lo è il sottinteso di questa pubblicità. Al piano successivo entra un giovane maschio elegante e curato. Le due arpie si fanno l'occhiolino, perché non appena l'ascensore si chiuderà, gli salteranno addosso e lo sbraneranno, tanto l'innocente non conosce la realtà che si nasconde nelle loro mutande. Una breve digressione. Circolano due pubblicità attualmente sugli schermi del circuito televisivo interno di bus e metropolitane. Offrono pochi essenziali dati. 1. Il 75% delle donne italiane soffre di stitichezza. 2. 3 donne su 4 soffrono di emorroidi. Non si citano fonti. Seguono consigli e prodotti, yogurt, creme, eccetera. Torniamo a noi. Tipico esterno metropolitano. Due giovani ragazze felici, sorridenti. Ne arriva una terza. Ella pronuncia una frase con pudibonda timidezza. Ragazze, scusate il ritardo, ma avevo un fastidioso prurito intimo. Compare un tubetto di crema. Aspettate, lo voglio tradurre per le meno etere. Scusate il ritardo, mi prudeva la fica, invece di uscire di casa ho passato le ultime 3 ore a grattarmela. Riassumendo, dagli anni 70 ad oggi, nonostante il femminismo, nonostante la fame nel mondo, nonostante le sfide epocali del nuovo millennio, nonostante l'imminente disastro ecologico, le donne devono preoccuparsi soprattutto di non puzzare, non scolare, non grattarsi, defecare con garbo. Naturalmente, ammesso che i problemi della vita siano davvero questi, è un problema solo femminile. Se infatti la maggior parte delle pubblicità di deodoranti è rivolta a un pubblico femminile e prometto loro di poter far parte del consorzio civile, solo pochi analoghi prodotti sono rivolti agli uomini, con la promessa che sicuramente una principessa accorrerà festante a coronarle lo sforzo in vari soddisfacenti modi. Abbiamo d'altronde avuto modo di apprendere da altra pubblicità che un minatore può uscire dalla miniera e mentre guida con il gippone su anguste stradine di montagna potrà pulirsi con fazzolettini umidificati, arrivando fresco, pulito, stirato e praticamente nuovo in una casa in cui una femmina non vede l'ora di dargliela. Certo, esistono prodotti specifici per l'igiene maschile, intendo le schiume da barba, eccetera. Ma fateci caso, dove alle donne viene insinuata un'idea di insicurezza e inadeguatezza, cui eventualmente il prodotto può avvenire in soccorso, il messaggio rivolto agli uomini è completamente diverso e va nella direzione della costruzione di sicurezza, di prestigio, di sex appeal. Riflettiamo insieme. Un tempo si diceva che tacchi, capelli cotonati, bustini, borsette e altre frattaglie modaiole erano modi per controllare il corpo delle donne. Adesso che le donne si vestono un po' come gli pare, per controllare il corpo e già che ci siamo dare una bella botta anche alla psiche, basta inculcare loro l'idea che il loro corpo è qualcosa di disgustoso, che puzza spaventosamente, che scola in continuazione in ogni fase fisiologico-anagrafica ormonale. Non solo. Quando alle mestruazioni, la donna va fuori di testa, costringendo poveri impiegatini, ma molto intelligenti, ad avere in ufficio cassetti pieni di medicinali antisindrome premestruale, allo scopo di arginare la potenziale invasione di ferocissime zombie che ciclicamente minaccia il luogo di lavoro. A chi è diretto questo messaggio? Alle donne, certo, molte delle quali faticano a difendersene, alcune delle quali se ne sbattono per fortuna. altre delle quali vedono riconfermati i pregiudizi che loro stesse accolgono e coltivano in sé. E agli uomini, che però fanno anche un po' pena, poverini, obbligati come sono dalla società eterosessuale e patriarcale a rapportarsi con questi esseri ripugnanti. Ma chi colpisce prima ancora? Le bambine, in cui fin da piccole viene inculcata l'idea dell'imperfezione naturale del corpo femminile, e i bambini, che imparano a vedere nelle bambine e nelle donne esseri dall'anatomia discutibile, sanzionabile ed in generale inferiore. Nessuna pubblicità, infatti, consiglia agli uomini sull'igiene intima, di cui pure avrebbero bisogno. Nessuna pubblicità sta lì a ricordare continuamente le umane, meschine e normali imperfezioni e disfunzioni maschili. Se ciò accade, trattasi sicuramente di rassicurante pubblicità progresso, il cui primo scopo è confortare. L'odio per le donne nei secoli si è costruito e fomentato intorno al disgusto per i loro corpi, aristotelicamente appartenenti al regno oscuro delle tenebre, del sangue, del freddo, dell'acqua, della terra, della passività, tutt'altra cosa dall'apollineo corpo maschile. E questa idea continua ad essere veicolata tuttora, dagli schermi, dalle riviste, dai cartelloni della nostra festosa civiltà, che lavora ormai apertamente a ricacciarci indietro in ogni ambito sociale e politico. Il nostro corpo di donna, mestruato, giovane, anziano, sessuato, è sano, normalmente pulito senza troppi sforzi. Di solito rilascia liquidi e solidi nei tempi fisiologici ed ormonali medi, senza tragedie né stigmi sociali. Se accade diversamente, può esserci un problema di salute, che non è la norma e che non rappresenta tutte le donne, non connota la femminilità. Le mestruazioni sono qualcosa di normale. Se ci lasciassero fare, se non tentassero di problematizzarle e medicalizzarle in ogni modo, come tutte le cose femminili da cui l'uomo è escluso, pensiamo alla gravidanza e al parto, divenute ormai eventi a massimo tasso di innaturalità, forse sparirebbero anche la maggior parte delle sindromi premestruali. Una volta dicevamo «io sono mia», adesso siamo costretti a proclamare «io sono sana». Non è per niente rassicurante. Bellissimo questo articolo, ti faccio di nuovo i miei complimenti. Grazie. Io spero che qualcuno di voi abbia voglia di dire qualcosa e vi ricordo l'SMS sul quale scriverlo, è 339-853-6270 e adesso mandiamo Malika Ayane con il brano Come foglie. Di un'estate come non mai piove, intanto penso a quest'acqua un senso, parla di un rumore prima del silenzio e poi è un inverno che va via da noi. Allora come spieghi questa maledetta nostalgia di tremare come foglie e poi cadere al tappeto? Di tremare come foglie poi spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai. E dunque vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87-900 MHz di Radio Onda Rossa. La nostra trasmissione va in onda a partire dalle ore 21:15, mentre il martedì femminista e lesbico inizia alle ore 17 tutti i martedì e fino alle ore 23. Ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. Potete contattarci qui in radio allo 06 49 17 50 fino alle ore 22, oppure alla Casa Internazionale delle Donne presso il Centro Femminista Separatista ogni giovedì a partire dalle ore 21 al numero 06 68 64 201. Oppure ancora potete scriverci a CLR presso Centro Femminista Separatista Casa Internazionale della Donna, via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Vi ricordiamo inoltre anche la nostra mail, che è contatti@clrbp.it, e il nostro sito web www.clrbp.it. Ancora una volta, visto che non è arrivato neanche uno, io ci spero sempre, il nostro cellulare per inviare gli sms, che è il 339-853-6270, che rimarrà attivo fino alle ore 22. Ricordo ancora la campagna di sottoscrizione straordinaria per Radio Onda Rossa, che non trasmettendo pubblicità ha bisogno dei contributi volontari delle ascoltatrici e degli ascoltatori. Potete passare qui in radio tutti i giorni dalle 8 alle 21, oppure compilando un bollettino di conto corrente postale dal numero 6180-4001 intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185 Roma, e specificando nella causale sottoscrizione. Ed ora mettiamo un po' di swing, e dalla voce delle Blue Dolls ascoltiamo il brano Brava, che originariamente era una canzone cantata da Mina, però io tenevo in modo particolare a mettere questa canzone, soprattutto questo gruppo, le Blue Dolls, perché recentemente la RAI ha mandato in onda è arrivato un messaggio, grazie, dopo lo leggiamo, ha mandato, dicevo, questo sceneggiato in due puntate sulla storia del trio Lescano, grazie. Ecco, però si sono, come dire, dimenticati di scrivere nei titoli che quelle che davano la voce alle attrici erano appunto le Blue Dolls, che a loro volta sono un terzetto di donne torinesi, guarda caso. E vabbè, ascoltiamo questo brano che si intitola Brava. Queste note così basse che si apparo, poi vado su, vado su. Brava, brava, sono tanto brava, brava. Certo, se qualcuno vuole proprio mignolare, forse qualche cosa non sa fare, ma sicuramente sì. Non può essere una cosa che non ha nessun valore, se vogliamo ricordare come me nessuno sa cantare, solo come un uccellino. Senti il trillo, senti il trillo. E vi ricordate quelle note così basse che si apparo, poi vado su, vado su. Tanto di quel fiato che neppure una balena può resistere sott'acqua, stando sempre a respirare tutto il tempo che io tengo questo mio. Brava, brava, sono tanto sono brava, sono tanto brava, faccio così sopra con la voce, sembro un signolo, sì. Ma però mi sentirei un poco più tranquilla se potessi questa sera farmi dire che sono brava, sì, ma che dirlo siate voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi che lo sentite questo povero mio cuore che fa boom, boom, boom, boom, boom. Eccomi, ogni tanto mi perdo. Allora, prima di continuare con la nostra trasmissione, sto litigando coi tasti qui, volevo leggervi il messaggio che è arrivato poco fa, che dice: è davvero un bellissimo racconto, e quanto è vero che ci fanno sentire inferiori e inadeguate, salvo farci fare le veline solo per accompagnare il maschio nei suoi giochi di rappresentanza. Allora non puzziamo, meno male che la Bindi c'è. Ciao e un bacio da Francesca. Grazie Francesca. Allora, l'altra parte della nostra trasmissione prevede la recensione, diciamo, di un articolo che abbiamo trovato su D di Repubblica dal titolo "Naturalmente non possiamo pagarti". Allora, intanto diciamo che questo supplemento, e questo in modo particolare che contiene l'articolo, è del 25 settembre, quindi molto recente, ma il supplemento di per sé non è che a noi piaccia granché, così pieno di moda, di pubblicità, che rimandano ad un femminile molto all'interno delle compatibilità patriarcali e che quindi per ovvi motivi non ci corrisponde. Ma talvolta però può rivelarsi interessante guardarci dentro. Noi l'abbiamo fatto e abbiamo trovato alcuni spunti. Ma torniamo al titolo che ha colpito la nostra attenzione. Naturalmente non possiamo pagarti. È un articolo curato da Gina Pavone che racconta della nuova moda utilizzata dalle aziende. Ricordatevi per inciso che per berlusconiana dicitura l'Italia stessa è un'azienda, così come pure le università. Comunque dalle aziende che realizzano i loro guadagni reclutando professionisti senza prevedere remunerazione alcuna. E vi leggiamo qualche passaggio di questo articolo. A volte l'offerta è diretta, ti cercano loro, vogliono proprio te, ma la proposta termina con un avverbio a scelta tra naturalmente, ovviamente, chiaramente, a giustificare il resto, non possiamo pagarti. Frase con cui Maddalena Balsamo, attrice e videoblogger su YouTube, ha titolato un video dal titolo molto polemico. Perché di proposte così se ne sentono sempre di più. In diverse occasioni mi hanno chiesto di presentare libri o leggere in pubblico senza offrire nemmeno un rimborso spese. Nel mondo dello spettacolo questa pratica dilaga. Altro esempio: una casa editrice abbastanza grande voleva delle video recensioni per il sito, ma la proposta si è conclusa con il solito "naturalmente non possiamo pagarti". Ma perché naturalmente? Il lavoro non è quella attività che per definizione si fa in cambio di soldi? Non sempre. Dipende. La scusa buona ce l'hanno tutti. Le aziende piccole dicono: sai, non c'è budget. Quelle grandi invece, così ti fai conoscere. Quello che è vergognoso è che addirittura molte società, tra le quali case editrici e non solo, si servono di personale non pagato, che lavora dunque a titolo volontario. Peccato che questo volontariato non venga scelto volontariamente. Chi guadagna dall'avvio di questi progetti è solo l'azienda, che aumenta i propri profitti a discapito dei lavoratori, che si beccano solo dei grazie e la remota possibilità un domani di guadagnare, pensate bene, un contratto a progetto. Che culo! E questa sorte spetta non solo ai giovani, ma anche ai professionisti di una certa età e in tutti i campi. L'incipit dell'articolo della Pavone recita: cercasi attore con barba, grafico esperto web, cantante jazz, professore universitario, architetto di interni e persino giardiniere. Seguono diverse righe di requisiti. Il principale è che i candidati devono essere disposti a lavorare senza essere pagati. Annunci veri, pubblicati sul portale web specializzato. Moltissimi propongono stage, altri direttamente collaborazioni gratuite. Il lavoro c'è, volendo, ma senza stipendio. Altro aspetto da non sottovalutare, diciamo noi, è che nascondono, cioè si tenta di nascondere il lavoro non pagato con la finta formazione, i famosi stage. Ma sentite cosa racconta ancora la giornalista Gina Pavone. Fino a poco più di 10 anni fa nemmeno esistevano gli stage. Oggi sembra non ci sia categoria immune. Spesso non remunerati, comunque sempre sottopagati e senza garanzie. Ormai si fa uno stage anche per diventare commesse o magazzinieri. Un'ampia ricognizione sull'argomento è nel libro La Repubblica degli Stagisti di Eleonora Voltolina, edizioni La Terza, dove si parla di 500.000 di stage all'anno in Italia. L'altro aspetto sorprendente, vista la riforma dell'università voluta non dalla stagista ma dalla sfascista, direi io, Gelmini, è che le università italiane, dal nord al sud, si servono di docenti non pagati che svolgono lo stesso lavoro di quelli retribuiti. Le amministrazioni universitarie si affrettano a far firmare contratti di volontariato gratuito mentre a tutti gli effetti svolgono le attività di docenza, quindi le lezioni, il ricevimento, le tesi, gli esami e quant'altro. Ma del resto, se i finanziamenti arrivano a seconda del numero degli iscritti, la legge di mercato diventa un cappio molto stretto. Per concludere, ci piace portare la testimonianza di Arianna De Luca, 23enne, che concretizza come vengono maltrattati e sfruttati i più giovani. Sentite quale trattamento le è stato riservato. Non è ammesso che un giovane parli di soldi. Se lo fai, ti trattano da arrogante, commenta Arianna De Luca, 23 anni appunto, neolaureata in design che ha progettato un tavolo da degustazione per un'azienda che produce mobili interattivi. Quando ha provato a chiedere qualche soldo, si sono inalberati subito, mi hanno liquidato sostenendo che dovevo ritenermi soddisfatta se il progetto andava in produzione, che chiunque altro alla mia età non l'avrebbe nemmeno chiesto. Questa è la situazione drammatica, perché oltre al lavoro sommerso che viene camuffato sotto gli stage, oltre a tutta una serie di lavori che spariscono, guardate, anche legato al precariato nella scuola, cioè è stato detto che i precari nella scuola sono un esubero, ma a quelle persone comunque coprivano dei posti che sono misteriosamente stati soppressi, cioè queste persone andavano a lavorare, il posto c'era, però sono state fatte delle manovre per cui sono stati, prego. I precari della scuola sono anche coloro che hanno frequentato una scuola, la SIS di formazione, pagata migliaia di euro ogni anno e con un numero chiuso che li doveva immettere nel mondo del lavoro, quindi lo Stato si è preso i soldi, certo, ma non ha restituito il posto. Ma il discorso dei soldi che vengono date per queste strutture che dovrebbero poi formare è altro alle spalle. Queste persone comunque erano già formate, perché ci sono precari che sono 30 anni che fanno i precari, avevano un posto sia pur precario, ma perché nella scuola c'era mancanza di personale, sono state accorpate le classi, eliminate alcune figure, per cui sono stati cancellati i posti di lavoro. Non è che questi stavano in esubero, hanno cancellato i posti di lavoro. Vabbè. Ma soprattutto, piccolo inciso, all'università stanno per andare in pensione centinaia di docenti che hanno superato la soglia d'età consentita, ma non ci sono assolutamente, non c'è possibilità di assunzione per nessuno. Certo. E allora noi, per sdrammatizzare un attimo, vista anche l'ora, mandiamo un brano, Ma non ci pensa, di Teresa Desio. Allora, ma che fa? Non è cosa? E tiene sta voglia a Luca? Qualche cosa? Ti gira una tavola? Ti guarda tu ora e non sai che fa? Allora, noi normalmente non interrompiamo mai le canzoni, però il tempo è tiranno e a noi premeva leggere un comunicato che ci ha mandato Azione Gay e Lesbica, per cui chiedo la cortesia a Nicolette di leggerlo prima di salutarci. Il comunicato si intitola Gadget con scritto Gay e Lesbica. La ditta rifiuta di produrli per motivi di etica. Riteniamo utile segnalare il comportamento discriminatorio del quale Azione Gay e Lesbica è stata vittima pochi giorni fa da parte della ditta Best Promotion con sede a Carpi, Modena. I fatti, che esponiamo brevemente qui di seguito, sono di una chiarezza lampante. Confidiamo nel vostro aiuto per una diffusione quanto più possibile massiccia dell'informazione. La vicenda inizia ai primi di settembre, quando un attivista di Azione Gay e Lesbica contatta via mail la ditta Best Promotion, che produce gadget personalizzati. Alla ditta, individuata tramite internet, l'attivista chiede un preventivo per la realizzazione di fiammiferi da personalizzare con immagini sui due lati della confezione. Per circa 15 giorni intercorrono scambi di mail fra la nostra attivista, che si firma con il proprio nome e cognome e non specifica di appartenere ad Azione Gay e Lesbica, ritenendo evidentemente il dato non così dirimente, e lo staff della Best Promotion, fino a che si giunge all'ordine e quindi all'invio da parte della nostra socia delle immagini da stampare sui fiammiferi. Si tratta di due raffigurazioni stilizzate di una capretta, in cui compaiono anche la bandiera arcobaleno, la scritta necessariamente, le iniziali del nome dell'associazione, AGL, e l'indicazione del nostro sito, www.azionegayelesbica.it. Ad un giorno dalla ricezione della mail con le immagini, la Best Promotion risponde che rifiuta il lavoro per motivi di etica. Alla richiesta di chiarimenti su questo rifiuto, la Best Promotion non dà più alcuna risposta. Il motivo del rifiuto, ad accordi pressoché stabiliti, di produrre il gadget è evidentemente legato al contenuto delle immagini e in particolare alla presenza dei termini gay e lesbica in una di queste e magari anche della bandiera arcobaleno, ammesso che sappiano cosa significa. D'altronde è comunque simile a quella della pace, altro tema che probabilmente maldispone gli illuminati eticamente corretti gestori della ditta, non nuovi a questo genere di rifiuti. Postate questa notizia, fatela girare e diffondetela in ogni modo, perché è bene che quante più persone possibile sappiano che la ditta Best Promotion si ispira a principi omofobi e razzisti. Firmato Azione Gay e Lesbica. E noi con piacere l'abbiamo letto. Allora, il CLR vi dà appuntamento alla prossima trasmissione. Noi rialziamo un po' la musica di Non c'è pensà, perché a questo punto forse è l'unica cosa che possiamo fare temporaneamente per non farci venire una cirrosi epatica. E quindi grazie ad Alessia, grazie a Nicoletta, salutiamo grazie, tutte. Grazie, arrivederci, buonasera a tutte. Grazie, ciao. Ciao. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold.